Da storie di bimbe, di donne e di streghe di Elizabeth Gaskell, la strega Lois. 1. Nell'anno 1691 Lois Barclay stava ritta sul piccolo molo di legno, cercando l'equilibrio sulla terraferma esattamente come 8 o 9 settimane prima aveva tentato di fare sul ponte rollante della nave che la portava dalla vecchia alla Nuova Inghilterra. Trovarsi ora sulla terra era ugualmente strano che poco tempo prima essere cullati dalle onde del mare, giorno e notte. E ugualmente strano era il paesaggio. Tutti intorno le foreste lontane, ma non poi così distanti dalle case di legno della città di Boston, avevano sfumature di un verde diverso e anche contorni diversi da quelle che Lois Barclay conosceva bene a casa sua nel Warwickshire. Si sentì mancare mentre se ne stava lì sola ad aspettare il capitano della nave Redenzione, il vecchio marinaio burbero e buono che era il suo unico amico conosciuto in quel continente sconosciuto. Ma il capitano Holderness, come si era resa conto, aveva da fare e ci sarebbe probabilmente voluto del tempo prima che potesse occuparsi di lei. Sicché Lois si sedette su uno dei barili che erano lì intorno. Si avvolse ben stretto il pesante mantello grigio e si riparò alla meglio sotto il cappuccio dal vento penetrante, che sembrava inseguire ostinatamente chi aveva maltrattato in mare per continuare a tormentarlo sulla terraferma. Pazientemente Lois sedeva lì, anche se era esausta e gelata. Infatti, per essere maggio la giornata era rigida e la Redenzione, carica di generi di necessità e di ristoro per i coloni puritani della Nuova Inghilterra, era la prima nave ad essersi avventurata attraverso i mari. Come poteva Lois non ripensare al passato e meditare sul futuro mentre sedeva sul molo di Boston in quella pausa della sua vita? Nella pallida foschia che fissava con occhi doloranti, involontariamente di tanto in tanto le si riempivano di lacrime. Si ergeva la chiesetta di Bereford, a meno di 3 miglia da Warwick, la potete vedere ancora oggi, dove suo padre era stato pastore sin dal 1661, molto prima che lei nascesse. Lui e sua madre erano sepolti nel cimitero di Bereford, e non appena le si presentava l'immagine della bassa vecchia chiesa grigia, anche la vecchia canonica appariva ai suoi occhi. La casetta coperta di rose austriache e di gelsomino giallo, dove era nata, figlia unica di genitori già da tempo al di là della giovinezza. Rivedeva il sentiero, meno di 100 yard, dalla canonica alla porta della sagrestia, quel sentiero che suo padre percorreva tutti i giorni, perché per lui la sagrestia era studio e tempio, dove meditare sui voluminosi tomi dei padri e compararne gli insegnamenti con i precetti delle autorità anglicane del giorno, al tempo degli ultimi Stuart. Infatti allora la canonica di Bereford superava di poco in grandezza e decoro le casette circostanti. Aveva appena 2 piani e 3 sole stanze su ognuno. Al pianterreno c'era il salotto, la cucina e il lavatoio. Al primo piano la stanza dei coniugi Barclay, la stanza di Lois e quella della domestica. Se c'era un ospite, Lois cedeva la sua camera e divideva il letto con la vecchia Clemens. Ma quei giorni erano passati, mai più Lois avrebbe visto suo padre e sua madre sulla terra. Dormivano, quieti e sereni, nel cimitero di Bereford, indifferenti rispetto a manifestazioni terrene di protezione o amore alla sorte della loro orfana. E anche Clemens giaceva lì, legata al suo letto erboso dai rami della rosa canina che Lois aveva guidato su quelle 3 tombe preziose prima di lasciare l'Inghilterra per sempre. Vi era chi l'avrebbe volentieri trattenuta lì, uno che in cuor suo aveva giurato solennemente a Dio che prima o poi l'avrebbe cercata se era ancora in vita. Ma era il figlio unico ed erede del ricco mugnaio Lucy, il cui mulino era in riva all'Avon, sui prati verdi di Bereford, e suo padre si aspettava di meglio per lui, della figlia del povero reverendo Barclay. In così poco conto erano tenuti i sacerdoti allora. E il mero sospetto sull'attaccamento di Hugh Lucy a Lois Barclay fece sì che i suoi genitori ritenessero più prudente non offrire una casa all'orfana, sebbene nessun altro parrocchiano avesse i mezzi per farlo, pur avendone il desiderio. Così Lois ingoiò le lacrime, sinché fosse giunto il tempo di piangere, e agì secondo le parole di sua madre. Lois, tuo padre è morto di questa febbre tremenda e io sto morendo, sì. È così, anche se in queste ultime ore, grazie a Dio, sento meno dolore. La crudeltà dei repubblicani ti ha lasciata sola e senza amici. L'unico fratello di tuo padre è stato ucciso a Edge Hill. Io pure ho un fratello, anche se non me ne hai mai sentito parlare perché era un eretico. Ebbe un alterco con tuo padre e se ne andò nel nuovo mondo, al di là del mare, senza neppure dirci addio. Ma Ralph era un ragazzo gentile. Prima di passare a queste nuove credenze, il ricordo dei vecchi tempi ti riceverà e ti amerà come una figlia e ti accoglierà tra i suoi figli. Il sangue è più denso dell'acqua. Scrivigli appena muoio, perché Lois, io sto morendo e benedico il Signore che mi fa raggiungere così presto mio marito. Era questo l'egoismo dell'amore nuziale. Poco pensava alla desolazione di Lois in confronto alla gioia di un rapido ricongiungimento col marito morto. Scrivi a tuo zio Ralph Hickson, Salem, Nuova Inghilterra. Annotalo, bambina mia, e digli che io, Henrietta Berkeley, per tutto ciò che lui ama in cielo e in terra, per la salvezza della sua anima, per il ricordo della vecchia casa all'Ester Bridge, per il padre e la madre che ci diedero vita, e per quei sei fratellini morti tra lui e me, chiedo che ti accolga in casa come sangue e carne sua, come tu sei per davvero. Ha moglie e figli, e non c'è bisogno che nessuno abbia paura di averte, Lois mia, tesoro mio, bambina mia, nella propria casa. Oh, Lois, come vorrei che tu morissi con me. Con questo pensiero la morte fa male. Promettendo di ubbidire in tutto ai suoi desideri, in punto di morte, e dimostrandosi fiduciosa nella gentilezza di suo zio più di quanto non osasse sentire, Lois confortò sua madre più di se stessa, povera piccola. Promettimi. Il respiro della donna morente diveniva sempre più affannoso. Promettimi che ti metterai subito in viaggio. Ti procurerai il denaro vendendo quello che abbiamo. La lettera che tuo padre ha scritto al capitano Holderness, il suo vecchio compagno di scuola. Sai tutto quello che vorrei dire, Lois mia? Dio ti benedica. Solennemente Lois promise e scrupolosamente mantenne la sua parola. Le riuscì anche più facile perché Hugh Lucy la incontrò e in un impeto d'amore le disse del suo attaccamento appassionato, delle liti furiose col padre, dell'impotenza nel presente, delle speranze e risoluzioni per il futuro, e tutto questo si intrecciava a minacce talmente oltraggiose ed espressioni così sfrenate e violente che Lois sentì di non dover indugiare a Bedford e di venire la causa della lotta disperata tra padre e figlio, mentre la sua assenza poteva migliorare la situazione e far sì che il vecchio ricco mugnaio si intenerisse. Oppure, e il suo cuore doleva pensando all'altra possibilità, che l'amore di Hugh si raffreddasse e il caro compagno di giochi dell'infanzia imparasse a dimenticare. Altrimenti, se un decimo soltanto di quanto Hugh professava era degno di fede, Dio poteva concedergli di attuare la sua risoluzione e di venirla a cercare prima che molti anni fossero passati. Era tutto nelle mani di Dio ed era bene così, Lois Barclay pensò. La risvegliò dal rapimento della memoria il capitano Holderness che, avendo dato le disposizioni e gli ordini necessari al suo secondo, andò da lei e, lodandola per il suo quieto pazientare, le disse che l'avrebbe accompagnata dalla vedova Smith, che aveva una dignitosa locanda dove lui e parecchi altri marinai di grado superiore alloggiavano solitamente durante la loro permanenza sulle coste della Nuova Inghilterra. La vedova Smith, disse, aveva un salotto per sé e per le figlie, dove Lois poteva intrattenersi mentre lui si occupava dei suoi affari, che, disse, l'avrebbero trattenuto a Boston per 1 o 2 giorni prima di poterla accompagnare a Salem da suo zio. Su questo si erano più o meno accordati a bordo, ma il capitano Holderness, non sapendo di cos'altro parlare, ricapitolò tutto quanto mentre camminava insieme a Lois. Era il suo modo di dimostrare simpatia per l'emozione che le aveva riempito gli occhi grigi di lacrime quando si era alzata di scatto dal molo al suono della sua voce. In cuor suo si era detto: povera ragazza, povera ragazza, è in terra straniera, tra gente straniera, e penso che si sentirà sola. Voglio cercare di metterla di buon umore. Così si era messo a parlare di cose pratiche, legate alla vita che l'aspettava, sinché giunsero dalla vedova Smith, e forse lo stile di questa conversazione e le nuove idee che proponeva rianimarono Lois più di quanto avrebbe potuto fare la comprensione della donna più amorevole. Sono tipi strani questi della Nuova Inghilterra, disse il capitano Holderness. A pregare non li batte nessuno, sempre in ginocchio a ogni occasione. Non ha proprio un granché da fare questa gente del nuovo mondo, altrimenti direbbe le preghiere come faccio io, un issa prima e dopo e una corda che mi taglia la mano come fuoco. Quel timoniere laggiù voleva riunirci tutti a ringraziare Dio per la buona traversata e lo scampato pericolo dei pirati. Ma io gli ho detto che ringrazio Dio sulla terraferma, quando la mia nave è salva in porto. E adesso ci sono anche i coloni francesi, che giurano di vendicarsi per la spedizione contro il Canada, e qui sono furiosi come pagani, perlomeno come ci riesce la gente pia, per la perdita dei loro privilegi. Queste sono le novità che mi ha raccontato il timoniere. Infatti, anche se voleva farci pregare, invece di gettare lo scandaglio, era proprio abbattuto per la situazione del paese. Ma eccoci dalla vedova Smith, su, allegra, e mostra ai bigotti com'è fatta una bella ragazza sorridente del Warwickshire. Chiunque avrebbe sorriso al saluto della vedova Smith. Era una donna gentile e materna, vestiva austeramente in conformità alle usanze della sua classe 20 anni prima, in Inghilterra. Ma in certo modo il viso simpatico smentiva l'abito. Marrone e discreto quanto si voglia, la gente lo ricordava, vivido e allegro, perché era una parte integrante di lei. Baciò Lois sulle guance, prima ancora di capir bene chi fosse quella ragazza straniera, solo perché era straniera e aveva un'aria triste e sperduta. E poi la baciò di nuovo perché il capitano Holderness la raccomandava alla sua cortesia. E così, tenendo Lois per mano, la condusse nella sua casa rudimentale e solida, con una gran frasca appesa sopra la porta, il segnale di ristoro per uomini e cavalli. Ma non tutti gli uomini erano ospitati dalla vedova Smith. Con alcuni si mostrava fredda e riservata quanto occorreva, sorda a qualsiasi richiesta tranne una in che altro luogo potevano alloggiare. Questa domanda rispondeva subito e spediva l'ospite sgradito per la sua strada. L'istinto la guidava in queste faccende. Un'occhiata alla faccia di un uomo le rivelava se era disposta o no ad accoglierlo in casa insieme alle figlie. E in quei casi la prontezza della decisione dava ai suoi modi una sorta di autorità che a nessuno andava di contrariare, soprattutto perché a portata di voce c'erano dei vicini robusti pronti a spalleggiarla, qualora né la pretesa sordità iniziale e neanche il tono e i gesti successivi bastassero ad allontanare l'aspirante ospite. La vedova Smith sceglieva i suoi avventori basandosi semplicemente sul loro aspetto fisico, senza la benché minima considerazione sulle loro circostanze esteriori. Quelli che avevano già alloggiato in casa sua ritornavano sempre, poiché aveva il dono di mettere ognuno a proprio agio e di farlo sentire bene sotto il suo tetto. Le figlie, Prudence e Esther, avevano ereditato le qualità materne, ma solo in parte. Si soffermavano a considerare l'aspetto di uno straniero, invece di sapere all'istante se lo gradivano o no. Tenevano conto delle indicazioni dell'abito, la qualità, il taglio, come segni del suo stato sociale. Erano più riservate, più esitanti della madre. Non avevano la sua prontezza nel decidere e neanche la sua abilità. Il pane che facevano loro non era così soffice, la panna a volte restava liquida invece di diventare burro. I prosciutti non sempre erano proprio come i prosciutti della vecchia Inghilterra, che era l'invariabile giudizio su quelli della madre. Comunque erano brave ragazze, metodiche, gentili, e si alzarono per salutare Lois con un'amichevole stretta di mano, quando la madre, cingendole la vita col braccio, condusse la straniera nella stanza privata che chiamava il suo salotto. Agli occhi della ragazza inglese l'aspetto della stanza era strano. Qua e là, tra l'intonaco di fango, si intravedevano i tronchi con cui la casa era costruita. Sebbene sopra l'uno e gli altri fossero appese molte pelli di animali curiosi, pelli regalate alla vedova da numerosi mercanti di sua conoscenza, proprio come i marinai suoi ospiti le portavano doni di altro genere, conchiglie, collane di chiocciole, uova di uccelli marini e regali dalla vecchia patria. La stanza sembrava un piccolo museo di storia naturale dei nostri giorni, più che un salotto, e vi si respirava un odore strano, particolare, ma non sgradevole, neutralizzato in parte dall'enorme ceppo di abete che si consumava nel camino. Quando la madre disse loro che il capitano Holderness era nell'altra stanza, le ragazze si misero subito a riporre filatoi e ferri da calza e cominciarono a preparare un qualche pasto. Quale Lois, seduta lì ignara a guardare, non avrebbe saputo dire. Innanzitutto fu messa a lievitare la pasta per i biscotti. Poi, da una credenza d'angolo, un dono dall'Inghilterra, sbucò un'enorme bottiglia quadrata di cordiale chiamato Golden Wasser. E ancora un macinino per tritare la cioccolata, una delizia rara e inconsueta dovunque a quel tempo. E infine una grossa forma di Cheshire. Furono tagliate 3 bistecche di selvaggina da arrostire, del grasso maiale freddo fu affettato e condito con melassa, fu preparato un enorme pasticcio simile a quello di carne, ma che le figlie chiamavano orgogliosamente pasticcio di zucca, fu grigliato del pesce fresco e sottosale, ostriche furono cucinate in vari modi. Lois si chiese quando sarebbero finiti i preparativi per accogliere ospitalmente gli stranieri del vecchio mondo. Infine, ogni cosa fu messa in tavola e il cibo caldo fumava. Ma tutto era tiepido, per non dire freddo, quando il consigliere Hawkins, un vecchio vicino molto conosciuto e stimato, che era stato invitato dalla vedova Smith per sentire le novità, ebbe concluso le sue preghiere, che comprendevano il rendimento di grazie per il passato e la supplica per il futuro di tutti i presenti, in relazione a ogni singolo caso, a seconda di quanto poteva intuire dal loro aspetto. Forse la preghiera sarebbe continuata ancora se il capitano Holderness non avesse accompagnato la seconda metà del ringraziamento tamburellando alquanto impazientemente col manico del coltello sul tavolo. Quando si misero a mangiare, tutti erano da principio troppo affamati per parlare granché, ma via via che l'appetito diminuiva, si accresceva la curiosità e da entrambe le parti vi era molto da dire e da ascoltare. Lois naturalmente conosceva molto bene le notizie dall'Inghilterra, ma ascoltava con palese attenzione tutto ciò che si diceva sul paese sconosciuto e sulla gente sconosciuta tra cui era venuta a vivere. Suo padre era stato giacobita. Era così che a quel tempo iniziavano a chiamare i seguaci degli Stuart, cioè i partigiani del re esiliato Giacomo II Stuart e dei suoi discendenti dopo la rivoluzione inglese del 1688, che costrinse il sovrano alla fuga in Francia. E il padre di suo padre era stato un fautore dell'arcivescovo Laud, teologo anglicano, personalità eminente alla corte di Carlo I Stuart, arcivescovo di Canterbury dal 1633, oppositore del calvinismo e del puritanesimo. Riteneva che l'essenza della fede anglicana stesse nei sacramenti e non riconosceva differenze fondamentali fra la dottrina anglicana e la cattolica. Con l'appoggio di Carlo I aveva instaurato un ritualismo rigido contro puritani e calvinisti e apparve come una potenza ecclesiastica che faceva causa comune con l'assolutismo monarchico. Fu arrestato per ordine del Parlamento inglese, processato nel 1644 e decapitato nel 1645. 45. Di modo che Lois aveva finora sentito poco della conversazione dei puritani e visto poco dei loro modi. Il consigliere Hawkins era uno dei più rigidi tra gli osservanti e la sua presenza metteva evidentemente in grande soggezione le due figlie, Ma la vedova era una persona privilegiata. La sua nota bontà di cuore, i cui effetti erano stati sperimentati da più di uno, le concedeva una libertà di parola tacitamente negata a molti, pena la taccia di impietà, qualora certi limiti convenzionali fossero trasgrediti. Il capitano Holderness e il suo secondo poi esprimevano le loro opinioni alla presenza di chiunque, sicché al suo approdo in Nuova Inghilterra Lois fu, per così dire, calata gentilmente nel bel mezzo delle peculiarità puritane, eppure no, furono sufficienti a farla sentire molto sola ed estranea. Il primo argomento di conversazione fu lo stato delle colonie. Lois se ne rese conto presto, sebbene da principio fosse non poco sconcertata dal continuo riferimento a nomi di luoghi che le veniva naturale associare con la vecchia patria. Stava parlando la vedova Smith. Nella contea di Essex la gente ha l'ordine di tenere 4 squadre di ricognitori, cioè compagnie armate, 6 uomini per compagnia, continuamente allerta contro i selvaggi, quelle belve di indiani sempre in agguato nelle foreste. Potete star sicuri che mi son preso una bella paura al tempo del primo raccolto, dopo il mio arrivo in Nuova Inghilterra, tanto che, anche se sono passati 20 anni dalla faccenda di Lothrop, continuo a sognare gli indiani appiattati dietro gli alberi, con facce dipinte, teste rasate, strisce di guerra, che si avvicinano sempre più senza far rumore. Sì, intervenne una figlia, e non ricordi, mamma, Hannah Benson? Ci ha raccontato che suo marito aveva tagliato tutti gli alberi intorno alla casa a Deerbrook, perché nessuno si potesse avvicinare senza essere visto. E una sera al crepuscolo se ne stava seduta lì fuori, mentre tutti erano già a letto e suo marito era a Plymouth per affari, quando per terra nell'ombra vide un ceppo, proprio come il tronco di un albero abbattuto. E non ci badò, sinché guardando di nuovo dopo un po' di tempo, le parve che si fosse leggermente avvicinato e si sentì mancare dalla paura e da principio non osò muoversi, ma chiuse gli occhi e contò fino a 100 e poi guardò di nuovo e, anche se l'ombra era più cupa, riuscì a vedere che il ceppo si era avvicinato ancora di più. Allora corse dentro e sprangò la porta e andò nella stanza dove dormiva il figlio maggiore. Era Elijah, aveva solo 16 anni, ma alle parole di sua madre si alzò, prese il lungo fucile da caccia di suo padre, ne controllò la carica. E solo allora parlò per invocare Dio di guidare la sua mira. E si avvicinò alla finestra che guardava dalla parte dove si trovava il ceppo e fece fuoco. E nessuno osò andare a vedere cos'era successo. Ma tutti insieme lessero le scritture e pregarono per tutta la notte, sinché fu mattina e apparve un lungo rivo di sangue sull'erba, vicino al ceppo, che, come rivelò la luce del sole, non era affatto un ceppo, ma un pelle rossa coperto di corteccia, tutto dipinto, col coltello da guerra al suo fianco. Tutti ascoltavano col fiato sospeso, sebbene la maggior parte di loro quella storia o altre simili fossero familiari. Poi un altro continuò il racconto dell'orrore. E i pirati sono comparsi a Marblehead, da quando siete stato qui l'ultima volta, capitano Holderness. È stato solo l'inverno scorso che sono approdati, papisti francesi, e tutti se ne stavano rintanati in casa perché non sapevano cosa sarebbe accaduto e hanno portato della gente a riva. C'era anche una donna tra loro, sicuramente prigionieri di qualche nave. E i pirati li hanno trascinati verso l'interno, nella palude, e la gente di Marblehead se ne stava quieta e zitta, con i fucili carichi e le orecchie tese. Perché chi poteva sapere se i feroci predoni del mare non intendevano fare un'incursione anche a terra? E nel cuore della notte sentirono provenire dalla palude l'urlo acuto e pietoso di una donna: Signore Gesù, abbi pietà di me, salvami dalle mani dell'uomo, oh Signore Gesù! E il sangue di quelli che sentirono il grido si gelò dal terrore, sinché la vecchia Nance Hickson, che da anni era completamente sorda e immobilizzata a letto, si alzò tra la gente raccolta in casa di suo nipote e disse che, poiché loro, gli abitanti di Marblehead, non avevano avuto cuori intrepidi o fede sufficiente per uscire a soccorrere gli inermi, il grido della donna morente sarebbe rimasto nelle loro orecchie e nelle orecchie dei loro figli fino alla fine del mondo. E Nance cadde a terra morta appena finì di parlare, e all'alba i pirati fecero vela da Marblehead. Ma la gente sente ancora quel grido acuto e pietoso venire dalla palude desolata: Signore Gesù, abbi pietà di me, salvami dalle mani dell'uomo, oh Signore Gesù! E per questa ragione, disse la profonda voce di basso del consigliere Hawkins con il forte suono nasale tipico dei puritani, che, dice Butler, col naso maledicevano la dolce crema. Il pio signor Noyes indisse un digiuno a Marblehead e predicò un sermone infervorante sulle parole «Ciò che non avete fatto all'ultimo di questi fratelli miei non avete fatto a me». Ma a volte mi sono venuto chiedendo se l'intera visione dei pirati e l'urlo della donna non siano stati espedienti di Satana per sondare la gente di Marblehead e vedere quali frutti produceva la loro fede, in modo da condannarli agli occhi del Signore. Se così fosse, il nemico ne riportò un gran trionfo, perché di certo non fu da cristiani abbandonare una donna inerme, senza aiuto nel suo atroce affanno. Ma consigliere, disse la vedova Smith, non si trattava di una visione, erano uomini in carne e ossa che sono approdati, uomini che hanno spezzato rami e lasciato impronte sul terreno. Se per questo Satana ha molti poteri e nel giorno in cui gli sarà permesso di aggirarsi come un leone selvaggio, non si fermerà alle inezie, ma compirà interamente la sua opera. Vi dico, molti uomini sono in realtà nemici incorporei che assumono forme visibili e che hanno la facoltà di vagare nei luoghi desolati della terra. Da parte mia sono fermamente convinto che questi pelle rossa siano davvero le creature maligne di cui leggiamo nelle sacre scritture, e non vi è dubbio che siano alleati degli abominevoli papisti, i francesi del Canada. Ho sentito dire che i francesi pagano agli indiani una certa somma in oro ogni 12 scalpi di teste inglesi. Un bel discorso allegro, disse il capitano Holderness a Lois, accorgendosi del suo pallore e della sua aria terrorizzata. Stai pensando che era meglio restarsene a Bedford, ragazza mia, ci scommetto, ma il diavolo non è così nero come si dipinge.